Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 3 marzo, il sole in regione sorto alle 6.44 e tramonterà alle 17.56. Mercoledì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei campi. Buongiorno da Armando Mucchino. Compie 100 anni di attività il Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia, una realtà strategica per il mondo dell'agricoltura, una volta unico punto di approvvigionamento per la gente dei campi, oggi momento di confronto su prodotti, attrezzature e filiere agricole. Questo nel servizio di apertura, per passare poi alla rubrica del bio, dove Cristina Micheloni prosegue la campagna di informazione contro i luoghi comuni e i depistaggi sempre più frequenti in materia. Ancora una puntata per l'orto sociale di Stefano Montello, che raccomanda la cura che si deve avere per le piante ma anche per le persone che vi partecipano. A seguire una scheda sul nocciolo, pianta comune all'apparenza umile ma per molti versi magica. Cominceremo poi ad analizzare le etichette dei prodotti alimentari, come devono essere compilate e lette, mentre per lo spazio della ricetta una proposta raffinatissima di torta con le mele. Andamento dei mercati, previsioni del tempo con una breve nota di climatologia locale, il proverbio della settimana chiudono la puntata. Quest'anno il mese di marzo in Friuli Venezia Giulia è anche il mese del centenario del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia, fondato nel 1919. Com'è cambiata la figura del Consorzio in questi 100 anni? Una figura cambiata in maniera tumultuosa, lo chiediamo a Dario Ermacora, che è il presidente del Consorzio. È cambiata in particolare in questi ultimi anni, se vogliamo. Per mezzo secolo io credo che la funzione sia stata sempre la stessa, quella di servire, diciamo, le aziende agricole di mezzi tecnici, quindi dai concimi alle sementi in particolare. Poi c'è stata un'evoluzione, se vogliamo, in questi ultimi anni. Il consorzio è cambiato sia attraverso i market verde, quindi anche andando a proporsi al dettaglio, il consumatore finale, e sia anche cercando di valorizzare i prodotti dell'attività agricola. Quindi abbiamo creato due filiere, una del latte e una del vino, e queste sono la vera novità, se vogliamo, dell'attività del consorzio, che non riguarda, diciamo, attività storica come in passato. Lo scorso secolo ogni paese aveva il suo consorzio e il direttore, chiamiamolo così, del consorzio, anche di paese, aveva lo status più o meno del farmacista, del carabiniere, quasi quasi anche del prete. Aveva un ruolo importantissimo perché era un'azienda che, diciamo, faceva credito, metteva l'azienda nella condizione di poter coltivare, perché dava la semente, dava i concimi e aspettava il prodotto per, diciamo, essere pagato, e quindi questo era un atto di fiducia che non era scontato. Il consorzio del Friuli Venezia Giulia si è maritato, mi passi il termine, in quel di Belluno. Matrimonio d'amore o d'affari? Ma è un po' d'amore, deve esserci sempre. Dopo, in questo caso, è anche una necessità dettata dalle nuove dinamiche del mercato, mettere assieme due realtà importanti come quelle del Friuli Venezia Giulia, che ha circa 140 milioni di fatturato, è quella di Treviso e Belluno, che ha 110, e che per fortuna sono molto sane dal punto di vista patrimoniale e anche di finanziario e di bilancio. È un'azione necessaria, ma è una condizione di forza che secondo me fa ben anche ben gestire un futuro che è comunque una sfida futura che è sempre più competitiva e dove, diciamo, strutturarsi dal punto di vista economico, finanziario, ma in particolare delle risorse umane, diventa fondamentale. Non abbiamo fatto una fusione, abbiamo messo assieme alcune attività strategiche, però insomma, che diventano fondamentali, indispensabili, come dicevo, per affrontare nuove sfide di mercato. Parliamo della festa di questo mese, cosa ci proponete? Ieri abbiamo fatto un convegno sull'agricoltura 4.0, sull'innovazione, che credo sia un tema che tocca un po' tutto, ma l'agricoltura in particolare, anche per raggiungere quegli obiettivi di sostenibilità ambientale di cui oggi tutti ne abbiamo bisogno, per prima l'ambiente ma anche il cittadino. Oggi faremo un convegno legato alla risorsa, sostanzialmente la semplifico, alla risorsa acqua, e che andremo a approfondire, insomma, i nuovi temi legati allo sfruttamento di questa risorsa, le nuove tecnologie che ci sono a disposizione e anche le nuove esperienze che esistono diciamo, sul mercato per affrontare, insomma, questo tema. Gran finale in quel di Palmanova. Gran finale a fine mese a Palmanova, e per appunto festeggiare questi 100 anni di attività, quindi l'azienda a servizio del mondo agricolo più vecchio in assoluto. Il bio anche per la biodiversità, intitola così oggi Cristina Micheloni il suo pezzo per quanto riguarda un pochettino una ricognizione generale sul biologico che, come tutti sapete, è al centro di vari attacchi in questi giorni. Quindi bio e biodiversità. La biodiversità ci serve per tantissime cose, ma una cosa non trascurabile è per continuare a mangiare. Recentissimo rapporto FAO che ha denunciato la perdita velocissima di biodiversità a livello globale, cosa che mette a rischio proprio la possibilità di continuare ad alimentarci. Quattro numeri proprio per dare un'idea del dramma. Delle 6.000 specie di piante coltivate a fini alimentari, meno di 200 contribuiscono realmente a darci da mangiare a livello di popolazione mondiale e solo 9 costituiscono il 66% di ciò che mangiamo. Quindi noi poggiamo i piedi, alimentarmente parlando, su 9 specie. Non solo, il 26% delle razze animali allevate è a rischio di estinzioni e un terzo degli stock ittici è già sovrasfruttato e quindi rischia di abbandonarci. Il biologico in questa chiave è una maniera per non solo fermare questa perdita di biodiversità, ma anzi ricominciare a produrla, soprattutto se facciamo ripartire questa coevoluzione tra chi alleva, chi coltiva e le piante, gli animali allevati e coltivati. Anche qui ci sono dei numeri scientifici a suffragio. Un altro aspetto però importante non è solo la biodiversità allevata o coltivata, ma è quella indotta dal metodo che non usa pesticidi, non usa gli erbicidi, cerca di non arare in maniera scriteriata, fa la copertura vegetale con i suoi vesci, eccetera. Tutta questa biodiversità nel terreno, nell'aria, eccetera, contribuisce a mantenere sano l'ambiente agricolo. E una riprova di quanto sta dicendo arriva dai vigneti bio o no. Una bellissima pubblicazione francese che trovate alla pagina Facebook ci dimostra come la gestione biologica dei vigneti aumenti la capacità di resilienza, termine abusato, comunque la presenza degli organismi utili di beneficio alla gestione del vigneto, quindi che sono parassiti, predatori o semplicemente competitor di quelli dannosi, ed è molto più efficiente di siepi, aree boscate o altri elementi singoli di biodiversità. Quindi si può dire anche bio e paesaggio. Assolutamente, perché questo contribuisce al paesaggio, contribuisce alla salubrità generale dell'ambiente, quindi non solo per l'agricoltore o per chi beve il vino in questo caso, ma anche per chi vive in questi territori. Produrre un orto sociale è una questione di cura, attenzione a quello che cresce sotto i piedi, ma anche alle persone che abbiamo con noi. E uno degli ultimi consigli in materia ce lo dà Stefano Montello. L'agricoltura sociale ha bisogno di pensieri complessi e di sentieri inesplorati. Gettare un seme è facile, averne cura costa certo fatica, ma poi arriva sempre il momento della raccolta, che darà nuovo seme. È duro, ma non difficile fare i contadini. L'investimento sta sotto i tuoi piedi, lo calpesti ed è gratuito, con opzione di rinnovo per l'anno successivo. Seminerai e raccoglierai. Tu devi solo metterci la mano d'opera. L'investimento è sotto i tuoi piedi. Possono non servire pensieri complessi e sentieri inesplorati, ma fare agricoltura sociale è tutt'altra faccenda e non basta la routine di un mestiere fatto pur a regola d'arte. Serve saper fare i cartografi. E qui mi viene in testa Dice Arco da Messina, scrittore, scienziato, filosofo, matematico e storico. Vissuto nel 300 a.C., sappiamo soprattutto di lui che fu ad Atene con Aristotele, del quale fu discepolo critico. Però questo Dice Arco ha fatto una cosa straordinaria, come non lo fosse il solo fatto di essere amico di Aristotele. Costui ha inventato la cartografia. Era un uomo curioso, come tutti i greci dell'epoca, e aveva anche del tempo a disposizione, evidentemente, e così misurò in piedi l'altezza dei monti del Peloponneso e quella, ci dice Plinio il Vecchio, del monte Pelione, e probabilmente, grazie ai suoi approfonditi studi su Pitagora, sugli Egizi e ai suggerimenti degli esploratori fenici, ideò un sistema basato su due linee ortogonali, l'orto te lo ritrovi dappertutto, su cui si sviluppa un reticolo di quadrati, altresì detti poi dai geografi alessandrini, coordinate geografiche dei meridiani e paralleli, cioè longitudine e latitudine. Tra i molti titoli e i pochi frammenti ci lasciò un libro intitolato Itinerario attorno al mondo, un titolo meraviglioso che presuppone un mondo non più sconosciuto e fatale, nel vero senso della parola, sperimentato dagli eroi omerici, ma un mondo ordinato da mappe e disegni, un mondo geometrico e accessibile, non più oscurato dalla presenza di destini avversi e da dei ostili. Un mondo pur sempre avventuroso, ma dominato dalla ragione, pieno di linee, di numeri, di punti di riferimento, in cui ad ogni ricerca corrisponde una risposta, dove perdersi è un paradigma, una scelta consapevole e non un fatto inesplicabile. A Dice Arco il messinese dedico sempre un pensiero grato, quando lavorando nella fattoria sociale sento di non capire nulla degli uomini e a fronte di una diagnosi generica su un soggetto fragile, devo poi provare a fare la mappatura della persona che ho davanti e devo congiungere i vari punti con delle linee rette, come si fa nella settimana enigmistica, sottrarre gli svariati tic, moltiplicare per le attitudini, addizionare il vissuto di ognuno e poi dividere per la volontà di salvarsi davvero e voilà, il gioco è fatto. All'apparenza è un umile arbusto, comunissimo anche dalle nostre parti, ma non tutti conoscono la magia di questa pianta, il nocciolo, come ci dice Antonino Danelutto. Quando i penduli amenti dei fiori maschili del nocciolo, mossi da un lieve venticello, liberano nuvole di polline, allora la primavera è veramente alle porte. Il nocciolo, o avellano, nome scientifico Corylus avellana, in friulano Noglar, è un arbusto alto fino a 3 metri, talvolta anche più. È assai diffuso su tutto il nostro territorio regionale, preferisce i terreni fertili del sottobosco o i margini dei boschi. Assai spesso colonizza i prati abbandonati da più anni, per poi cedere il posto agli alberi che crescono nelle vicinanze e che ricostituiscono in tal modo il bosco primitivo. Dalla base di un unico ceppo si alzano diversi rami che portano foglie dal picciolo ghiandoloso, rotonde od ovali, a margine variamente dentato e a apice acuminato. Il nocciolo è una pianta monoica e pertanto i fiori sono separati. I maschili sono spighe pendule, dette appunto amenti, che si formano già in autunno e che producono una grande quantità di polline allergenico. I femminili, riuniti fino a 5, sono piccoli e avvolti da brattee dalle quali sporgono stimi rossastri destinati ad accogliere il polline fecondatore trasportato dal vento. Il frutto, che matura in agosto, è la ben nota nocciola, la cui parte legnosa contiene un seme di alto valore nutritivo, ricco di proteine, di fibre, di sali minerali e soprattutto di acidi grassi insaturi, i cosiddetti grassi buoni, assai utili nelle malattie cardiovascolari e nel diabete. Vi è pure presente in quantità apprezzabile la vitamina E, uno dei più importanti antiossidanti in grado di neutralizzare i radicali liberi che sono cancerogeni. L'industria dolciaria impiega le nocciole prevalentemente nelle creme spalmabili e nelle cioccolate. Secondo la medicina popolare, il decotto di foglie private del picciolo e raccolte in luglio-agosto sarebbe utile contro le varici e l'insufficienza venosa degli arti inferiori. Lo stesso risultato si otterrebbe con il decotto della corteccia dei rami giovani. Del resto, le proprietà delle nocciole erano già sfruttate da Dioscoride nel primo secolo d.C. contro i disturbi dell'apparato respiratorio. Invece, il medico Mattioli del XVI secolo le impiegava, triturate e mescolate al grasso dell'orso, in lozione contro la caduta dei capelli. Il legno del nocciolo, essendo tenero, può essere lavorato facilmente dai tornitori, mentre sotto forma di carbone è ottimo materiale per disegnatori. Una curiosità. I rabdomanti, che cercano l'acqua del sottosuolo, si servono di un rametto di nocciolo biforcuto impugnato con entrambe le mani e tenuto parallelo al terreno. Esso si piegherebbe verso il basso solo quando si trova sopra la vena d'acqua. Leggere l'etichetta degli alimenti non è sicuramente un'operazione facile. Ci dà qualche dritta oggi Claudia Fontanini, che è la responsabile dell'ufficio certificazioni di qualità del Consorzio Agrario del Friuli Venezia Giulia, che ci cura la rubrica Qualità e sicurezza sulle nostre tavole. Se ci prendiamo il tempo per guardare con attenzione le etichette degli alimenti, troviamo informazioni che negli ultimi anni si sono molto arricchite. Possiamo allora fare valutazioni e scelte più consapevoli e informate. A cosa fare particolare attenzione nel leggere l'etichetta? Guardare sempre la data di scadenza, espressa con da consumare entro. Dopo tale data, il prodotto può deperire rapidamente e non essere più sicuro per la salute. Va quindi rispettata. Il termine minimo di conservazione, espresso con da consumarsi preferibilmente entro, non va confuso con la data di scadenza. Indica la data entro cui l'alimento mantiene integre le sue qualità organolettiche e nutrizionali. Dopo potrebbe risentirne il palato, ma non ci sono problemi di sicurezza. Il prodotto quindi, anche nell'ottica della riduzione degli sprechi alimentari, può ancora essere consumato. Attenzione alle modalità di conservazione. In particolare vanno rispettate le temperature di conservazione indicate in etichetta per i prodotti refrigerati e quelli surgelati. Guardiamo gli ingredienti, che sono indicati in ordine decrescente di quantità. Se si è allergici, controllare l'eventuale presenza di allergeni che sono messi in evidenza. Potremmo trovarne in alimenti dove non ce li aspettiamo. I formaggi, per esempio, non solo non sono adatti all'allergici al latte, ma se contengono il lisozima, troveremo in etichetta anche l'allergene uovo, da cui deriva questo conservante. Da un paio d'anni è obbligatoria la tabella nutrizionale, che ci consente di sapere, per esempio, quante calorie contiene il prodotto, o l'apporto di sale, dato di interesse in particolare per gli ipertesi. Esistono applicazioni per smartphone che facilitano la lettura delle etichette, permettendo anche personalizzazioni. Si può per esempio impostare che si vuole ridurre l'apporto di sale. Inquadrando il codice a barre, presente sulla confezione, l'applicazione ci dirà se il prodotto è adatto o meno a noi, in base a quanto comunque è scritto in etichetta. È considerata una ricetta semplice, ma state a sentire quanto può diventare elaborata e preziosa. È la torta di mele, oggi al centro del contributo di Roberto Zottar. All'inizio era la mela, o almeno così ci hanno tramandato, ma pare che non le si possa attribuire la colpa della cacciata dal paradiso terrestre, perché in nessuna parte della Bibbia si parla di mela, ma solo genericamente di frutto. La mela ha accompagnato l'evoluzione dell'umanità fin dagli albori, ha saputo nutrire i nostri antenati, ma anche stimolare la loro immaginazione. E così sono nate migliaia di ricette per servire il fantastico pomo in tutte le salse, dolci o salate, o per trasformarlo in un rimedio capace di contrastare disturbi più o meno arcani. Il detto «una mela al giorno leva il medico di torno» è molto recente. È stato coniato dal professore americano Stinson solo nel 1904. La torta di mele, invece, ha origini lontane. Nel 1300, nella Francia medievale, veniva preparata, oltre che con uvette e fichi, anche con cipolle appassite, così come risulta dalla ricetta della tarte aux pommes del cuoco Guillaume Tirel, soprannominato il Tallevin. La sua torta, insieme a quella di pere, è in anticipo sui tempi dell'epoca e la sua modernità sta nel fatto che ha una crosta di pasta, che oggi definiremo frolla o brisè, che è possibile mangiare. Al tempo, infatti, la crosta di un pasticcio, salato o dolce, non si mangiava ma serviva a cuocere il contenuto. La torta di mele è ancora oggi un evergreen della tradizione dolciaria. In Francia si declina come tarte à tatin, cotta rovesciata di mele caramellate inventate dalle sorelle Tatin, ma la sua tradizione è particolarmente radicata nei paesi anglosassoni con la mitica apple pie legata nell'immaginario dei bambini alla figura di Nonna Papera. Molto gustose le ricette da cui attingere, tra cui localmente la pite carnica di Gianni Cosetti o la torta di mele dei conti del Mestri della Contessa Perusini. Per oggi, però, ho scelto una torta sbriciolata di mele di un'amica di Web, Marina di Trento. Fate velocemente un impasto con 2 etti di farina, 1,5 etti di zucchero, 1 etto di burro e 1 cucchiaio di lievito in polvere. Lasciate pure l'impasto a briciolone, che verserete per 3/4 in una tortiera imburrata da 24 cm di diametro. Metteteci sopra 1 chilo di mele sbucciate tagliate a fette sottili, versate sopra il rimanente 1/4 dell'impasto a bricioloni. Non premete, tutto deve risultare molto irregolare. Infornate a 180 gradi per 20 minuti. Intanto mescolate con una frusta 2 uova, 2 etti di panna liquida, 1 yogurt bianco, 100 g di zucchero di canna. Passati 20 minuti di forno, estraete la torta e versateci sopra questo composto e rinfornate nuovamente per 40 minuti. La torta, oltre che con le mele, si può fare con pere, albicocche, prugne. È davvero speciale. Buon appetito! Ed ora con Amos D'Antoni per l'andamento dei mercati agricoli. Andamento ancora in discesa venerdì scorso nelle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,60 e 16,80 euro al quintale IVA esclusa. Il frumento buono mercantile tra 20,20 e 20,50. L'orzo tra 19,90 e 20,40. e la soia tra 32,70 e 33,20. Rispetto ad un anno fa il prezzo del mais è confermato, mentre la soia è diminuita di 4,90 euro al quintale. Mercato tendenzialmente in leggero rialzo nel settore dei bovini da macello, con le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto tra 2,30 e 2,80 euro al chilo IVA esclusa, quelli di seconda tra 1,60 e 2,30. Stabilità invece per i vitelli da ristallo, con i blu belga maschi quotati tra 5,60 e 6,20 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,30 e 5 euro, i frisoni tra 1,50 e 1,80 e i bruni tra 1,40 e 1,70. Timidi accenni di ripresa nel settore suinicolo, con il valore della tonzola di 40 kg franco partenza fissato a 2,17 euro al chilo IVA esclusa e i grassi da macello a 1,13. Domanda sostenuta nel comparto caseario, con il prezzo del montaggio fresco compreso tra 5,30 e 5,95 euro al chilo. Quello di 4-6 mesi tra 6,70 e 7,20, con marchio di qualità tra 7,40 e 8 euro, lo stagionato ai 12-15 mesi tra 7,70 e 8,10. Infine, tendenze in valutazione nel comparto degli avicunicoli, con i poli a terra pagati tra 0,93 e 0,95 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,33 e 1,35, le faraone tra 2,30 e 2,34, le anatre tra 2,35 e 2,39, i conigli oltre 2 kg e mezzo, quotati da alcun di Verona tra 1,94 e 2 euro. E con il previsore dell'ARPA Osmer, Sergio Nordio, diamo un'occhiata al meteo della settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Nella scorsa settimana, la presenza su gran parte dell'Europa ed anche sulla nostra regione di un robusto anticiclone, con aria molto mite di origine africana, ha portato condizioni di tempo molto stabile e ha favorito un innalzamento notevole delle temperature, soprattutto di quelle massime. Mercoledì abbiamo registrato valori di temperature eccezionalmente elevati su gran parte della pianura, fascia pedemontana e montana, con il record assoluto per febbraio registrato a Gemona, dove si sono sfiorati 24 gradi, valori quasi estivi. Molto caldo anche in Carnia e a Fondovalle, con 22 gradi e mezzo a Tolmezzo. In quota, sul monte Zoncolan, a 1700 metri circa, abbiamo misurato valori medi giornalieri di 7 gradi, ben 11 in più rispetto alla media, e ancora più eclatante è il confronto con gli ultimi giorni di febbraio dello scorso anno, che fu particolarmente gelido. Si misurarono infatti, sempre nei valori medi, meno 18 gradi, quindi quest'anno 25 gradi in più. Tutto il mese di febbraio è stato più caldo del solito, da un grado fino a 4 in più rispetto alla norma, e solo sulla costa l'anomalia è stata attenuata dal mare Adriatico ancora freddo, che ha frenato l'aumento delle temperature massime. Ora le correnti in quota di provenienza nord-atlantica sono un po' più fresche e diverranno, in tendenza nei prossimi giorni, occidentali, portando a tratti maggiore umidità sulla nostra regione. Domani ci aspettiamo un aumento della nuvolosità, con un peggioramento nel pomeriggio sera, quando avremo piogge moderate in montagna e neve oltre 1000 metri circa, poche piogge invece su pianura e costa e in genere deboli, soprattutto nella serata. Martedì e mercoledì, variabilità con probabile formazione di foschie o nebbie su pianura e costa, zero termico oscillante intorno ai 1800 metri circa e con temperature massime sulla pianura e sulla costa che saranno comprese fra i 12 e i 15 gradi, valori che sono leggermente sopra la norma. Giovedì è atteso un nuovo fronte con piogge sparse e neve probabilmente intorno ai 1200 metri di quota. Fra venerdì e sabato è previsto un moderato calo della temperatura e probabilmente ancora instabilità. La primavera sembra quindi fare un passetto indietro, condizioni in evoluzione che invitano ad essere attenti agli aggiornamenti quotidiani delle previsioni. Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano. Tal entra o tal li sci, la di fa si marcia sentì. Ovvero, iniziando o terminando marzo, deve comunque farsi sentire, da un punto di vista meteorologico ovviamente. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.